ci dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Coração e Dinheiro. Coração e Dinheiro. Facciamo rete, stiamo bene insieme. Coração e Dinheiro. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Non è retorica. Se tu credi in qualcosa, puoi cambiarlo. Se non ci credi, no. A me è successo. Stavo studiando alla Bocconi, avevo fatto quel tipo di percorso che mi è servito, però avevo una passione. Preventivamente ho pensato come realizzare quel sogno, con una strategia. Ci ho pensato e l'ho realizzato subito. Poi però, nella vita di tutti noi, ci sono degli accadimenti che sono meno positivi. E bisogna avere il punto di vista positivo per trasformarli. Se vuoi cambiare le cose, ce la puoi fare. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, dagli studi di Roma di Radio 24. Quello che avete ascoltato era il comico Fabrizio Fontana. Lo riconoscerete sicuramente se seguite Zelig. Forse non sapevate che, per esempio, è anche laureato in economia e commercio alla Bocconi ed è stato mattatore, circa un mese fa, il 16 maggio, di un convegno che vedeva protagonisti circa 500 giovani provenienti da scuole superiori ed università in un'iniziativa nell'ambito della giornata nazionale della previdenza che si è svolta a Milano. Allora, ricordando quella giornata, noi oggi torniamo sulla previdenza complementare, su questo argomento così importante per tutti i lavoratori italiani, tema importante al quale però ancora si tende a pensare un po' poco. Le definiamo molto spesso superficialmente le pensioni di scorta, ma in realtà parliamo di quell'assegno integrativo che dovrebbe accompagnare l'assegno pubblico che prenderemo tra qualche tempo, perché pensare insomma ad una vecchiaia serena e ad una pensione che sia adeguata al nostro stile di vita di quel momento è un tema molto importante. Con chi ne parliamo questa mattina di questo argomento? Saluto i miei ospiti qui in studio. Rino Tarelli, presidente della COVI per la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Buongiorno presidente. Buongiorno. Presidente peraltro da qualche mese, perché prima c'era una situazione, un'organizzazione diversa in COVI, era commissario e quindi la ripresentiamo con il nuovo ufficiale in carico. E ringrazio anche per essere con noi Roberto Manzato, direttore centrale Vita, Danni e Servizi di ANIA, che è l'Associazione delle Imprese di Assicurazione. Manzato, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. E allora subito mano alla cornetta, lo chiedo ai nostri ascoltatori, vedo che già qualcuno si è messo in coda appunto per intervenire. Neanche avevamo ben preannunciato l'argomento di oggi, segno che in realtà forse la sensibilità sull'argomento della pensione complementare c'è, ce n'è anche molta, però forse ci sono un po' ancora delle resistenze che vanno superate e stamattina le argomenteremo con i nostri ascoltatori. Allora 800 24 00 24. Avete pensato ad una pensione integrativa per voi, per i vostri familiari? Perché sì? Perché no? Raccontatecelo, fateci le vostre domande se non vi è chiaro come funzionano questi strumenti e quali sono le diverse tipologie fra cui si può scegliere. Se volete potete anche scriverci al 349-238-6666, su Facebook, su Twitter, ci potete raggiungere in ogni modalità. Vorrei fare subito una fotografia sulla situazione italiana. Nel 2013 i risultati di gestione delle forme pensionistiche complementari sono stati, al netto dei costi, superiori al tasso di rivalutazione del TFR mantenuto in azienda, che è in flessione rispetto all'anno precedente. La raccolta dello scorso anno è stata di 12 miliardi e mezzo, di cui 5,2 miliardi provenienti da flussi di TFR destinati alla previdenza complementare, mentre è salito ad 1.400.000 il numero degli iscritti ai fondi pensione che ha sospeso i versamenti a causa della crisi economica. Presidente Tarelli, vogliamo commentare subito questi dati che peraltro voi in maniera anche più articolata avete presentato nella vostra relazione annuale di fine maggio. Ma i dati in generale sono buoni. Gli iscritti, 6.300.000, sono intorno al 25% della forza lavoro in Italia. È vero che all'estero i dati sono molto più buoni, più consistenti, però dobbiamo scontare in Italia ancora un periodo di non corretta informazione. Occorre una fase di alfabetizzazione, specialmente per i giovani, che non hanno ancora chiara la dimensione del problema previdenziale e pensionistico. Riguardo al funzionamento, i fondi hanno fatto un ottimo lavoro fin qui, malgrado la crisi ricorrente per anni che abbiamo avuto in Europa. Il rendimento dei fondi è stato un rendimento addirittura sorprendente della loro efficacia. C'è un problema di numero di fondi che io giudico eccessivo, perché i fondi un po' troppo piccoli sono più in difficoltà a gestire efficacemente sul mercato gli investimenti e a gestire anche la possibilità di alfabetizzazione. Quindi la linea che noi seguiamo è quella di incoraggiare la fusione dei fondi, la razionalizzazione. E ne discutete con l'industria di questo argomento? Sì, ne discutiamo spesso, c'è un ottimo rapporto insomma tra noi, la Confindustria, le categorie, le parti insomma che hanno titolo in questo. L'attività della Covid è un'attività molto aperta. Noi scegliamo un sistema di vigilanza di sistema, non un sistema di vigilanza arcaico sui pezzi di carta. La vigilanza di un sistema significa intanto individuare insieme le linee di sviluppo e quindi consentire che queste linee abbiano una loro percorribilità. Per cui c'è un lavoro di aggiornamento, di crescita continua che stiamo portando avanti. Insomma, riteniamo che il lavoro di Covid, che è stato fino a qui insomma apprezzato e riconosciuto da tutte le nostre controparti, sia un lavoro che abbia in sé la forza e la capacità di agevolare lo sviluppo di questo dato, che per l'economia italiana e soprattutto per le famiglie italiane è fondamentale. La pensione integrativa, bisogna immaginare che tutto quello che si perde oggi non si recupera domani. Però le perplessità appunto delle persone sono un po' sempre le stesse, diciamo che in molti sostengono che in questo momento non riescono a pensare a questo argomento perché ci sono altre emergenze nell'ambito familiare, c'è chi poi non si fida tra virgolette del fondo pensione perché ritiene che non funzioni alla stessa maniera del trattamento di fine rapporto, per esempio se uno ha bisogno di un riscatto parziale anticipato, invece non sa che magari per il fondo pensione il funzionamento è lo stesso, e tanti altri argomenti, tant'è che appunto questo 25%, Presidente, è la stessa percentuale da molti anni, no? Diciamo che non cresce più di tanto. Forse nel 2006, quando ci fu il famoso semestre del silenzio assenso, la platea complessiva di aderenti ai fondi pensione arrivò al 23%, se non ricordo male, quindi nel giro di 8 anni siamo cresciuti di circa il 2%, la platea potenziale è molto, sì, molto più ampia. Sì, molto più ampia. Infatti. Ma queste perplessità sulla possibilità di riscatto, sulla volatilità del mercato, sono frutto di una disinformazione che purtroppo non è colpa delle persone che non l'hanno, ma un po' dei fondi, delle parti istitutive che dovrebbero darsi un po' da fare in modo più organizzato. La fase del silenzio assenso è stata una fase assolutamente importante, però c'è pure chi critica, e non ha torto, una obbligatorietà che, trattandosi di un fondo integrativo, insomma stride. Allora noi pensiamo che sarebbe opportuno invece creare un sistema binato: da una parte un'iscrizione generalizzata che però consente in un lasso di tempo predeterminato al lavoratore di poter valutare le opportunità e i vantaggi. Questo comporta la seconda parte del discorso, cioè andare, discutere, alfabetizzare. Questo è, riguardo al riscatto, ci sono diversi modi per riscattare, e anche quello di anticipare. Non è vero che se ti iscrivi al fondo pensione lì i tuoi soldi non puoi più gestirli. Anzi, il contrario. Allora, sa che mi verrebbe la tentazione di chiederle, ma magari me la tengo un po' per tutta la puntata, se chi sono questi fondi che lei vedrebbe ben aggregati, quali tra i piccoli vedrebbe. No, già scuote la testa e non vuole esporsi. Va bene, magari indago in privato. 800 24 00 24, sono già pronti Martina da Perugia e Aldo da Roma, ma prima una domanda a Roberto Manzato voglio farla, perché qua andiamo al mondo assicurativo, al mondo relativo ai PIP, i piani individuali di previdenza, che sono istituiti e gestiti proprio da alle compagnie di assicurazione. 2.700.000 aderenti, diffusissimi in Italia, una quota di mercato che dal 2002 al 2013 è cresciuta dal 15 al 42%. Sono dati corretti, dottor Manzato? Sì, sono corretti. Le motivazioni, secondo me, di questo successo commerciale da parte dei PIP sono da ricondurre a due aspetti diversi. Il primo relativo al modello di servizio, il secondo relativo al prodotto stesso. Diciamo che il fondo pensione difficilmente si propone da solo ad un potenziale aderente. Per quello che riguarda un piano individuale, esatto, di previdenza, c'è un consulente che ti viene a trovare, che ti spiega un po' il funzionamento, la dinamica, il vantaggio, insomma tutto il funzionamento della soluzione. Sì, soprattutto oltre a fornire la consulenza sulla fiscalità, sulle regole, riesce a far capire che in realtà non si tratta per gran parte delle persone di una pensione di scorta, perché quando si parla di pensione di scorta sembra quasi mi serve se eventualmente buco qualche cosa, no? In realtà è una delle quattro ruote. Con le riforme pensionistiche che ci sono state, soprattutto per quanto riguarda le generazioni più giovani, c'è effettivamente la necessità di avere una parte del proprio trattamento pensionistico costituito in maniera privata. Per cui sicuramente il fatto che ci sia un consulente che in qualche modo riesca, magari con l'arte della maieutica se vogliamo, a far capire che esiste questa necessità. Come dovrebbe esercitare l'arte della maieutica il consulente per proporre un fondo un piano individuale previdenziale? Innanzitutto deve far comprendere qual è la necessità. La necessità c'è dentro di noi, nel senso che basta porsi l'obiettivo, capire un minimo quale sarà il nostro obiettivo pensionistico, per e vedere quali sono le regole attuali della pensione di base, per capire che c'è, come in inglese dicono, un gap fra quello che vorremmo avere e quello che effettivamente avremo. Probabilmente avremo. Esatto. Per cui in questo caso viene da sé, se uno ci fa pensare a questo argomento, che insomma la pensione integrativa è qualcosa di oramai necessario. Allora, stanno scrivendo in tanti ascoltatori, ognuno ci racconta la propria esperienza, in molti hanno aderito alla previdenza complementare e ci spiegano a quali fondi. Sto prevalentemente notando adesioni a fondi pensione, quindi a quelli di categoria. Se si fa il metalmeccanico ci si iscrive a Cometa, presidente Tarelli, no? L'insegnante si iscrive a fondo espero, c'è chi si lamenta, qua dice il primo atto, adesso non sono a conoscenza di tutto questo, primo atto, la nomina di molti dirigenti, eccolo qua, e i rendimenti non sono affatto quelli promessi. Allora, espero peraltro tra i fondi chiusi è proprio uno degli ultimi nati. Io credo che sia anche piuttosto presto per fare un ragionamento sui rendimenti, no? Sì. Cioè, voglio dire, il fondo pensione non ha questo spirito, pertanto che rispetto profondamente l'osservazione dell'ascoltatore, e naturalmente se poi una persona così attenta è giusto anche che controlli un po' quello che succede, ma Espero è nato 2 anni fa, 3 anni fa, presidente, proprio diciamo nella fase peggiore dei mercati. Sì. E quindi? E quindi intanto bisogna comprendere che i fondi pensione hanno tra le loro caratteristiche di salvaguardia degli investimenti un arco temporale che è molto più lungo rispetto agli investimenti speculativi. Quindi, mentre gli investimenti speculativi anche mese per mese, anno per anno, trimestre per trimestre si può, per i fondi previdenziali non funziona così, perché altrimenti ci sarebbe un rischio, certo, grave sull'esito finale delle pensioni. È uno dei compiti che noi abbiamo, è proprio quello di salvaguardare questa diversa tipologia. In Italia i fondi PIP, fondi chiusi, fondi aperti, hanno questa loro robustezza proprio per questo impianto. Quindi il nostro ascoltatore non deve guardare adesso, dopo un anno, dopo 2 anni, ma piuttosto noi abbiamo dato a tutti i fondi chiusi, aperti, PIP, il progetto semplificativo. Ognuno entro ogni anno, il 31 marzo di ogni anno, sì, ha da parte del fondo a cui si è iscritto il quadro della sua situazione, in base a quello che ha versato, in base ai flussi quindi precedenti dell'ultimo anno e il rendimento, e con questo si può avere una stima di quella che sarà la sua pensione alla fine dei 35, dei 40 anni. Ogni anno questo va verificato. la persona può stabilire, se aggiungere qualcosa, può stabilire e cambiare linea di investimento, perché anche il fondo ha comunque linee, quella un po' più aggressiva se hai un'ottica temporale particolarmente lunga, ne hai una più moderata e bilanciata se la tua ottica temporale è vicina, come dire, alla pensione, è chiaro che la strategia sarà più conservativa. Comunque la pensione oggi va intesa come un salvadanaio individuale, questa è la differenza tra il sistema di prima e quello da adesso. Alla fine si rompe il salvadanaio, ognuno ha quello che ha saputo mettere via e l'investimento che è stato saputo fare dal suo fondo, certo. Quindi va monitorato il fondo e diciamo che sarebbe la nostra busta arancione che da noi c'è, insomma. Esatto, perché il rendiconto annuale arriva anche per i PIP, Manzato? Assolutamente sì, le norme sono uguali per tutte le forme pensionistiche complementari, è stato fatto un gran lavoro di armonizzazione, devo dire, e pertanto vale per i fondi aperti, per i PIP, per i fondi negoziali, ormai anche per i preesistenti, direi, che sono sottoposti, salvo piccole diciamo peculiarità, sono sottoposti alle stesse norme. Allora, costruiti anche insieme, certamente, ragionando sui dati. Certo, certo. Allora, devo fare la borsa fra un minuto, però siccome aspettano da un po', io mi prendo le due domande dei due ascoltatori che stanno attendendo da qualche minuto, quella di Martina e quella di Aldo, ai quali poi rispondiamo subito dopo la nostra pausa per i mercati, la pubblicità e quant'altro. Martina, buongiorno. Intanto noi, come sempre lei sa, noi facciamo partire sempre le donne, il nostro programma, e quindi Aldo da Roma è un cavaliere e ascoltiamo Martina per prima. Buongiorno. Buongiorno Deborah, sono Martina e chiamavo per avere un'informazione. I miei genitori sono vicini alla pensione, 5-6 anni al massimo, e tempo fa mi chiedevano se conveniva anche a loro entrare in un fondo pensione. Voi cosa ne pensate? Martina, ma per lei invece ci pensa? Io già ci ho pensato, ho aderito qualche mese fa al fondo pensione previsto dalla mia banca di fiducia. Ah, benissimo, benissimo, cioè, insomma, qua sembra che io mi metta a dare dei giudizi, dica bravi, no, per carità, facciate finta che non abbia detto niente. Allora, sentiamo anche Aldo da Roma, quindi mettiamo un po' di fieno in cascina, come si dice. Aldo, buongiorno anche a lei. Buongiorno Deborah, ascolti, io più che una domanda volevo fare un appello a non aderire. Io ho 60 anni, ho aderito 12 anni fa ad un fondo, immaginando, dopodiché nei mesi scorsi ho potuto verificare, quello che diceva il Presidente è sacrosanto, è un salvadanaio che ognuno di noi ha o pensa di avere, purtroppo ha un buco sotto che perde quotidianamente. A mio parere, il combinato disposto delle normative fiscali aggregato a quello che è il profitto, o oserei dire addirittura gli atti speculativi dei gestori, portano ad essere non conveniente l'adesione al momento in cui si vuole uscire, o previa, come ho fatto io con una richiesta di anticipazione parziale, o quando poi immagino cercherò di prendere tutto, perché io mi sono trovato a perdere, ovviamente non entro nei dettagli delle cifre, soldi che avevo accantonato, che erano già puliti miei in tasca, perché il fondo mio veniva generato da un TFR del mio datore di lavoro ed un accantonamento volontario che mese per mese io dalla mia tasca. Come molti di noi fanno, Aldo, certo. Esatto. Dopodiché però mi sono reso conto che sull'arco di un anno, io parlo di una questione che è durata 12-13 anni, sull'arco di un anno ho visto, ho visto che mi ha generato una plusvalenza del 9-10%, non di più. Bene, mi sono trovato su questa piccola anticipazione che ho chiesto e che ho avuto proprio poche settimane fa, a pagare, ad avere una trattenuta, quindi tra oneri e costi, del 24-25% tra varie voci. Ho chiesto giustificazioni, mi hanno dato tutta una serie di indicazioni, ma noi utenti non ci capiamo granché. Senta Aldo, abbiamo capito, guardi, abbiamo avuto anche Roberto Manzato che scuote la testa, adesso le rispondiamo. Vedo dalla sua anticipazione anche la società con la quale ha sottoscritto il prodotto. Le chiedo se gentilmente mi scrive in privato, perché vorrei chiedere qualche informazione in più su questo riscatto anticipato e parziale che le è costato così tanto, come lei dice, se era già previsto contrattualmente, se c'è stata qualche svista. Ma siccome ci dicono che in realtà c'è un forte incentivo fiscale alla sottoscrizione dei fondi pensione, e non si capisce perché qua invece il fisco è andato tutto al contrario. Cuore e denari. Interrompiamo la trasmissione per importanti aggiornamenti. La linea al nostro inviato speciale. Grazie per la linea, non saprei proprio come descrivere quello che sta accadendo. Sono tutti impazziti. Seguiamo la folla per vedere dove si dirigono. Sembrerebbe che vadano verso la banca. Ma perché? Chiediamo spiegazioni ad uno dei loro impiegati. Salve, per caso lei è a conoscenza della nuova iniziativa pensata apposta per il futuro dei nostri giovani? Si tratta della previdenza integrativa. Essa rappresenta oggi una scelta importante per riuscire a mantenere al termine della carriera lavorativa un buon tenore di vita e la garanzia di un futuro migliore. E nel corso della Giornata Nazionale della Previdenza c'è stato anche un concorso, il premio Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro, che ha visto protagonisti studenti delle scuole superiori e università. Sono stati premiati alcuni contributi audio-video che comunicavano proprio i concetti che stanno alla base della cultura della previdenza integrativa, e questo è lo spot. Naturalmente non potevamo sceglierne un altro, che ha vinto la categoria radio, ideato da una quarta superiore di Rho vicino Milano, quindi non potevamo non mandarlo in onda. La comunicazione, ne parlavamo anche nella prima parte del programma, è un aspetto fondamentale in questo ambito, perché questa cultura in Italia non è ancora diffusa come dovrebbe, e chiaramente a volte anche un po' le sorprese nelle quali incappano alcuni sottoscrittori contribuiscono ad alimentare anche questa incertezza, come è capitato all'ascoltatore che abbiamo sentito prima e al quale adesso risponderemo. Comunque, tanto per ridare qualche cifra, al 31 marzo di quest'anno le adesioni alla previdenza complementare hanno superato quota 6.3 milioni, una cifra di tutto rispetto, ma non è ancora abbastanza. La platea potenziale è ancora molto ampia, come abbiamo detto all'inizio. Allora, Roberto Manzato, Ania, rispondiamo all'ascoltatore di prima, che adesso mi sfugge come si chiami, ma ce l'avevo segnato qua, e Aldo. Adesso vado su Aldo, ecco. Bravo, se vuol venire a condurre Cuore e Denari prossimamente sono felice. Allora, Aldo ha avuto bisogno, dopo 12 anni di versamenti, di un riscatto anticipato parziale del suo fondo pensione, e si è trovato appunto una sorpresa di un carico fiscale su questo riscatto che non si aspettava. Non gli era stato spiegato bene o c'è dell'altro, dottor Manzato? No, diciamo che la normativa bisogna conoscere molto bene magari il dettaglio del caso di Aldo, però in generale il riscatto per motivi diversi da morte, invalidità permanente, cessazione dell'attività lavorativa è tassato con una ritenuta a titolo d'imposta al 23%. Quindi se lui avesse avuto bisogno di questo riscatto per questi motivi che lei ha indicato, che tassazione avrebbe avuto? Allora, per gli altri motivi è un'imposta del 15% che si riduce dello 0,3% fino a arrivare al 9% se una persona resta nel fondo pensione per più di 15 anni e arriva al massimo, diciamo, del beneficio, che è una tassazione secca del 9% dopo 30 anni di permanenza. E guardate che questa tassazione però si applica solamente alla parte di montante che è stata generata dagli importi che hanno goduto del beneficio fiscale, mentre sugli altri non si applica. Pertanto è estremamente conveniente come imposizione fiscale. Ma il caso appunto di Aldo? In questo caso lei... si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%, che è la stessa imposta, anzi forse leggermente inferiore. Che sarebbe stata applicata se avesse riscattato il TFR. Se avesse chiesto un anticipo del TFR, o se gli fosse stato liquidato il TFR. Quando uno cambia lavoro, il TFR viene liquidato e viene sottoposto a tassazione, non è mica... Allora, diciamo che qualora arrivasse un consulente privato che ci propone questa soluzione previdenziale, facciamoci fare bene il ventaglio dei casi in cui, se ho bisogno di riscatto anticipato, che tassazione pago. Quindi tanto magari dal caso di Aldo appunto possiamo dare un'indicazione anche concreta agli ascoltatori. Guarda, che la stessa ci stanno tassazione pensando. Si applica anche quando si chiede l'anticipo. Se io chiedo un anticipo per l'acquisto di prima casa o per ulteriori esigenze, pago una ritenuta a titolo d'imposta pari al 23%. Presidente Tarelli, peraltro, con questa crisi in molti hanno avuto bisogno o di riscattare parzialmente dal fondo pensione, in molti hanno sospeso i versamenti. E peraltro qualcuno ha fatto anche a malincuori. Tra tanti contestatori della previdenza complementare c'è invece chi appunto ha avuto, magari ha perso il posto di lavoro, quindi è mancato anche il contributo datoriale, l'apporto al TFR maturando. E questa situazione un po' come la state così considerando in questo momento? Ma guardi, intanto certamente alla base c'è questa difficoltà di natura economica, però c'è anche una cattiva conoscenza del sistema previdenziale integrativo, perché mantenere un rapporto attivo non è vero affatto che occorrano grandi risorse. Si può mantenere un rapporto attivo anche per un periodo di tempo, quello di difficoltà del rapporto di lavoro, eccetera, con importi più ridotti che successivamente potranno essere poi reintegrati, ma che intanto non permettono la sospensione dell'efficacia degli investimenti a vantaggio dei singoli. Quindi intanto io vorrei stimolare, sa, tante volte sembrano banalità, ma un paio di pizze al mese che non si vanno a mangiare possono compensare certo. questo periodo di difficoltà. Capitalizzate, certo. Detto questo, però, è evidente che le questioni sono legate a una ripresa economica. Ora, anche gli investimenti dei fondi possono dare una spinta all'economia. Noi stiamo facendo in questa fase una politica attenta proprio sull'economia reale. I fondi producono attività, producono lavoro, quindi producono versamenti sulla previdenza. Lo stanno facendo dappertutto, in Europa, negli Stati Uniti, naturalmente conservando però noi quei vincoli e quelle garanzie tipiche della previdenza integrativa, senza mai trasformare questi investimenti in altro tipo di investimento. Presidente, senta un po', ma le è mai capitato di bacchettare qualche fondo per qualche ragione in questi anni? Capita, non capita. Facciamo nomi e cognomi, ma per quali motivi? Beh, i motivi possono essere più svariati. Noi facciamo attività ispettiva, di controllo sugli investimenti, sul rapporto con gli iscritti. Quindi qua e là qualche volta occorre rimettere un po' a posto le cose e noi siamo lì per questo certo. e lo facciamo. Noi abbiamo risposto all'ascoltatrice giovane di Perugia che ci chiedeva per i suoi genitori. Lei ha già fatto l'adesione ad una forma di previdenza integrativa, i suoi genitori sono a 5-6 anni dalla pensione e chiedono se è il caso di sottoscrivere qualche soluzione appunto di previdenza complementare. Noi a microfoni spenti, io almeno l'ho detto, dico ma io suggerirò a questi signori di godersi un po' questi soldini magari e andarsene in crociera, qualche bella vacanza, non lo so, 5-6 anni di tempo manzato per aderire ad una previdenza integrativa vale la pena secondo lei? Questi signori avranno la loro pensione, nessuno gliela toccherà, quella pubblica. Allora, mi verrebbe da dire anche per ruolo, diciamo che non è mai troppo tardi. Naturalmente però 5-6 anni uno si deve aspettare, se mette via, diciamo, magari cercando di massimizzare, perché non vale la pena ammettendo farne che più, hanno una buona cifra mensile, il beneficio fiscale, quindi può versare al massimo 5.165 euro all'anno per 5-6 anni, insomma, uno si deve aspettare poi un'integrazione minima. A quel punto lì credo che addirittura una soluzione di investimento diversa, il montante è così basso che si può anche riceverlo tutto in capitale, per cui se fatto una probabilmente buon investimento dal punto di vista fiscale con una buona cedola magari esatto, una cosa non mi devo aspettare granché ecco. Allora lei Tarelli vuole aggiungere qualcos'altro su questi genitori? Beh, perugini in linea di massima ho poco da aggiungere perché è stato abbastanza però io consiglio sempre, non so dove lavorano queste persone in quelle attività, è sempre bene fare una verifica con le persone competenti, magari dovessero avere un fondo chiuso esatto, per esempio, oppure un fondo aperto o un PIP, insomma. Se avessero diritto a un contributo del datore di lavoro è un'occasione che in ogni caso non butterei via. Infatti insomma, stavo dicendo questo, se un fondo chiuso il datore di lavoro in quel caso dà un contributo esatto. e quindi un contributo che perderebbero anche per soli 5 anni, ma sarebbero 5 anni persi dal contributo. Quindi prima di dire no bisogna sempre fare delle verifiche. Insomma, io sono stata più superficialona e invece invitiamo i nostri ascoltatori giustamente a valutare con magari un buon consulente su questo argomento, che non deve essere necessariamente un consulente privato se naturalmente non vi fidate, insomma può essere anche, che ne so, in un CAF, in un centro assistenza fiscale. Ci sono i sindacati che in questi anni hanno fatto un grande lavoro su questo tema e quindi insomma le figure alle quali rivolgerci ci sono sul mercato. Chi sentiamo adesso? Stavo un po' così curiosando fra gli ascoltatori. Marco da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. La mia domanda era riferita all'età, diciamo, in cui uno accede alla pensione. Io aderisco a un fondo pensione chiuso di categoria da una decina d'anni. Se sfortunatamente sopraggiungo dopo l'età pensionabile un decesso diciamo precoce del contraente, insomma del sottoscrittore, che cosa succede ai soldi? Succede allo stesso meccanismo di una della pensione, c'è la versibilità, esatto. Marco, grazie, sì. Bella domanda, grazie. Chi si candida a rispondere? Presidente Tarelli? Sì, beh, è la stessa cosa, c'è un diritto e il diritto va rispettato. Vale anche per i piani individuali di previdenza, Manzato? Sì, assolutamente sì. sì, si può addirittura indicare un beneficiario che sia anche diverso dal, certo, dai normali, dai legittimi eredi. Quindi può essere anche un figlio, per esempio? Sì, comunque è un legittimo erede. Certo, ovviamente. Giovanni da Messina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Tempo bello, allora, Messina, stamattina è arrivato questo sole che ci sta facendo un po'. Sì, ieri pioveva, sì. Ci dica allora, tutto. Sì. Allora, mia figlia è stata assunta dal 1° giugno ora di quest'anno da un'azienda farmaceutica con un contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi. E già solo questa notizia varrebbe un bel brindisi, Giovanni, no? In questo momento. No, vabbè, è già il terzo o quarto lavoro che benissimo. Cambia. Si dà allora, da fare, insomma, questa ragazza. Sì, le è stato consegnato il modulo di adesione al Fonkin, che è il comparto, il fondo chiuso di categoria. Sì. Ho letto all'articolo 5, comma B del Fonkin, che possono aderire soltanto coloro che hanno un contratto superiore alla durata di 6 mesi. Ah. Telefonata al Fonkin, mi hanno detto no, può aderire ugualmente. Questo primo punto. Certo. Seconda domanda. Ma tra l'altro, Giovanni, ha lavorato sempre nello stesso settore, quindi lei potrebbe mantenere questa posizione. Non è mai stata iscritta a nessun fondo chiuso. La domanda più importante è questa: qualora decidessi di aderire alla scadenza quasi, cioè dicembre, del 6° mese, sì, con decorrenza però giugno, versando il TFR già maturato e la percentuale prevista dal contratto collettivo, che sarebbe nei confronti appunto del contraente, vale l'1,80, l'azienda è obbligata ad aderire anche retroattivamente con l'1,20 a partire da giugno? Mamma mia, Giovanni, guardi, ci prendiamo un attimo di pausa per ragionare su questo caso, perché dobbiamo scriverci tutti gli appunti. Non avevo neanche fatto caso che sono già le 11:48 ed è ora bella che suonata di mandare in onda il traffico. Tra poco. Cuore e denari. Luca e Andrea si sono diplomati e ora stanno per cercare un primo impiego. Luca ha trovato lavoro presso un hotel lussuoso, con un guadagno di 1.500 euro al mese, ma senza contratto. Andrea invece è stato assunto in una trattoria, ma è in regola e potrà iniziare a pensare alla sua pensione. Passato qualche anno, i due andranno in pensione. Mentre Luca farà fatica ad arrivare alla fine del mese, Andrea potrà godersi il meritato riposo. E allora, 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre telefonate. Qui parlavamo in questo stralcio di spot di Luca, una situazione immaginaria, ipotetica, invece molto concreta, quella del figlio di Giovanni da Messina, della figlia che ci ha raccontato essere stata assunta da pochissimo con contratto a tempo determinato da un'azienda farmaceutica. Naturalmente le è stato proposto di sottoscrivere, di aderire con una propria posizione a Fonkim, che è il fondo pensione appunto del settore chimico, e chiede, allora chiaramente questa ragazza ha bisogno di prendersi un po' di tempo per fare una valutazione, no? Per cui se aderisce non subito ma fra 3 o 4 mesi, intanto chiede se l'iscrizione vale dall'inizio, dal momento dell'assunzione, se soprattutto i contributi del datore di lavoro, che sono dovuti in questo caso se si aderisce ad un fondo pensione chiuso, lo stesso sono retroattivi. Ci abbiamo pensato un po', non conosciamo a menadito il regolamento di Fonkin, però qualche indicazione possiamo darla, dottor Manzato. Sicuramente per quanto riguarda l'importo del TFR viene versato tutto, quindi ab origine, diciamo. Per quanto riguarda il contributo del datore di lavoro, bisognerebbe capire nel contratto collettivo se, diciamo, faccio la scelta tra 4 mesi, se è retroattivo o meno. In tutta franchezza, ovviamente senza voler condizionare affatto la scelta dell'ascoltatrice, io francamente aderirei, perché in quel caso lì comunque ricevo il contributo da parte del datore di lavoro, il TFR è investito. Naturalmente devo fare anche io un versamento pari a quello del datore di lavoro, e nell'eventualità dovessi cambiare mestiere fra 6 mesi, fra un anno, fra 20 anni. Esatto, perché siamo un po' quello, no? Io trasferisco la mia posizione nell'altro fondo. Sono molti trasferimenti, presidente Tarelli, perché adesso io ho fatto sul fondo pensione la domanda a Manzato, che però è suo campo. Ecco, diciamo, si passa facilmente da un settore ad un altro? Facilmente, in quanto sì, facilmente come regolamenti sì. Ora, il movimento dipende anche un po' dalla situazione operativa delle singole aziende. Io adesso non ho i dati di questi aspetti, però ripeto anch'io, non c'è nessun problema. Nel momento in cui uno cambia azienda, porta il suo versato. Quindi teoricamente, adesso sperando che la figlia di Giovanni rimanga in questo campo, se è la sua passione, ma ammettendo che domani vada a fare la metalmeccanica e quindi Cometa diventi il suo fondo pensione, tutta la posizione in Fonchim diventa, si trasforma in Cometa. Diciamo, l'interlocutore vecchio non ricompare più, non è che poi fra qualche anno, quando va in pensione, Fonchim ricompare, dice quella porzione versata lì. Assolutamente. Benissimo, allora 800 24 00 24, insomma tante domande ancora da parte dei nostri ascoltatori. Manzato, è vero che i piani individuali di previdenza costano di più dei fondi pensione? Perché chiaramente qua c'è un'azienda privata alle spalle che gestisce queste soluzioni di risparmio previdenziale. Allora, il costo delle forme pensionistiche complementari non è che dipenda più di tanto dal prodotto, ma dipende dal modello di servizio. Lei, quando ha un prodotto individuale collocato da un professionista, un consulente previdenziale, evidentemente nel prezzo del prodotto paga anche il servizio di consulenza di questo consulente. Per cui le adesioni individuali con la presenza sollecitate da parte di un consulente mediamente costano di più delle altre adesioni. Prova ne sia il fatto che esistono dei piani individuali di previdenza acquistabili su internet, i cui costi ovviamente sono ridotti, certo. È un po' come la banca diretta per le assicurazioni auto e di altro tipo. Allora andiamo a Luca da Brescia, peraltro fra già un paio di minuti, qua mi sto spostando il microfono da sola, dobbiamo andare a sentire il giornale radio, ma mettiamo appunto altri argomenti da discutere dopo. Luca da Brescia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ascolti, io volevo solo manifestare, ma ho sentito già delle aperture da parte del Presidente, il mio dissenso proprio per il discorso della impossibilità a sganciarsi da un fondo nell'eventualità in cui uno decidesse di farlo, insomma. Ho sentito delle aperture ed è corretto, secondo me, valutare il fatto che la crescita della raccolta sia limitata proprio, secondo me, come motivo principale da questo. Ma è un'esperienza personale, Luca, in questo senso, o è così un'osservazione di carattere generale? No, è un'esperienza personale anche. Io aderisco a un fondo fonte dal 2006. Commercio, quindi. Esatto, commercio. Non ho ancora maturato gli 8 anni per poter richiedere dei riscatti anche anticipati per qualsiasi motivo personale piuttosto che di salute. Avevo comunque bisogno di una limitata cifra di denaro per acquistare la macchina alla moglie, giusto per parlare anche di cuore, non solo di denari. E ho dovuto chiedere un prestito con degli interessi molto alti. Però Luca, allora diciamo che usata. Io capisco che magari lei possa. Sostanzialmente mi hanno detto no, non si fa. Però se c'è un regolamento, no, che funziona così, se già tu sai dall'inizio che entro non prima di 8 anni puoi riscattarne una parte. Il tema è anche che questi strumenti, come dire, hanno il deterrente al riscatto frequente, no? Perché altrimenti uno, come dire, vanifica lo spirito del fondo pensione. Quindi Luca, non credo che sia proprio un dispetto, un limite dello strumento. Presidente Tarelli. No, io devo dire a Luca, il risparmio previdenziale è un risparmio molto particolare, sia per gli investimenti, sia per i fini, sia per il beneficio sociale che lo Stato riconosce a questo tipo di. Perché risparmio. Se lei sa che ha bisogno della macchina, non fa il fondo pensione, fa un conto di deposito, ci mette dei soldi e sa che dopo 5 anni può finire però questo concetto. Poiché è un risparmio previdenziale, la tassazione anziché essere del 26% è dell'11,50%. Se uno prende i soldi invece per fini diversi da quelli che sono previsti, viene a mancare, sarebbe un prelievo indebito. Certo. Dalla ci torniamo, è importante questo aspetto. Ci torniamo dopo il giornale radio, tra poco. Cuore e denari. Se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani. Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà. Pensiero pensare al domani. Eccoci di nuovo a Cuore e Denari, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Pensarci in tempo con progettualità, un po' di strategia per realizzare il nostro sogno, quello di una pensione tranquilla, nonostante le avversità che in questo momento magari a qualcuno si mettono sul cammino. Il sogno può essere appunto quello di una pensione serena, e questa è l'idea che sta dietro alla previdenza complementare, una cultura che in Italia continua a prendere piedi con un po' di fatica, anche per le tante perplessità che molto chiaramente stamattina i nostri ascoltatori hanno manifestato all'800 24 0024. Allora riprendiamo un attimo il filo di un discorso lanciato da un ascoltatore in precedenza, anzi da più di uno, perché molti ci state scrivendo anche al 349-238-6666. Presidente della Covip, con noi Rino Tarelli, stiamo commentando la situazione anche dei giovani che in questo momento intanto fanno fatica a trovare lavoro, perché la disoccupazione giovanile è il 46%, ma focalizzandoci su chi per fortuna un impiego lo trova, e sono sempre impieghi di carattere temporaneo, quindi contratti a termine, come il caso della figlia dell'ascoltatore di Messina. Allora stavamo spiegando un po' come funziona il meccanismo di trasferimento di una posizione da un fondo ad un altro, perché può essere che magari per un arco di tempo della propria vita una persona sia impiegata nel settore chimico e poi per questioni personali, professionali, si cambi settore, magari si debba trasferire la propria posizione ad un fondo di un comparto completamente diverso. Allora, questo trasferimento è semplice, Presidente, oneroso per i contribuenti, per i lavoratori? No, è semplicissimo, è previsto dalle regole, dalle norme, e oltretutto è chiaramente senza nessun onere a carico del trasferendo, della persona iscritta. Covid su questo ha emanato delle disposizioni molto precise, quindi non ci sono costi in questo caso, proprio per agevolare la creazione di una pensione integrativa associandola alla questione del posto di lavoro. Certo. Se ogni volta che uno cambia lavoro ha una tassa supplementare per trasferire il fondo, insomma, facciamo un ragionamento che non sta in piedi. No. Difatti c'è questa difesa dell'iscritto, del lavoratore, che deve portare con sé tutto quello che ha maturato fino a quel momento, fin dove ha lavorato, nella nuova realtà dove ha trovato collocazione, senza che questo comporti oneri. Ritornerei anche per un attimo a commentare il caso di Luca da Brescia, che ci ha chiamato prima e ci ha raccontato che uscire dal fondo pensione per fare riscatto parziale è molto difficile. La prima via d'uscita si concretizza ad 8 anni dall'inizio dei versamenti, e però Luca gli dice: io ho avuto bisogno prima, dovevo comprare la macchina per mia moglie, qua il fondo pensione si è messo di traverso e mi ha fatto riscattare. Allora il tema è, Luca, che il fondo pensione non può essere usato come bancomat, per cui dobbiamo proprio dimenticarci, una volta che abbiamo fatto la sottoscrizione, facendogli una ordinaria manutenzione naturalmente, perché non è che ce ne possiamo dimenticare del tutto, ma purtroppo però lo spirito è quello, Manzato, non si può usare come bancomat. Certo, sennò... diciamo, non è che il fondo si sia messo di traverso, c'è una normativa sottostante. In estrema sintesi, lo Stato concede dei grossi benefici fiscali a questa tipologia di risparmio. Io ricordo che questi benefici fiscali possono pesare, se ottimizzati, circa per 3 punti di rendimento aggiuntivi all'anno, che è una bella cifra, una cosa molto rilevante. Naturalmente però, in cambio di questo beneficio che la comunità, il fisco, quindi lo Stato, dà all'aderente, pretende che il risparmio sia finalizzato alla costituzione appunto della previdenza integrativa. Detto questo, esistono dei casi in cui però si può richiedere un'anticipazione o il riscatto della posizione. L'anticipazione, per esempio, per esigenze sanitarie, spese sanitarie, la si può chiedere dal primo giorno, per cui naturalmente è un'esigenza inaspettata, esatto, straordinaria e seria, e pertanto la norma consente questo tipo di anticipazione. Non per l'acquisto dell'auto. Dopo 8 anni si può, quindi bisogna starci 8 anni, si può chiedere un'anticipazione per l'acquisto della prima casa per sé o per i propri figli a carico, per esempio, oppure per altre esigenze, nel limite però in questo caso del 30% della posizione maturata, e questo sarebbe il caso relativo a Luca, no? Il 30% per qualsiasi altra esigenza, per l'acquisto della casa al massimo il 75%, okay, così come per esigenze sanitarie. Quindi al caro ascoltatore Luca va detto che la previdenza complementare serve, diciamo, per la finalità di avere una pensione integrativa e ti dà delle possibilità in caso di emergenza. Per acquistare un'autovettura o per altre esigenze di questo tipo, forse lo strumento più adeguato è quello di risparmio non finalizzato. Risparmio di breve termine proprio. Esatto, anche di breve termine, perché in questo caso qui non si rischia di perdere in conto capitale la parte di quanto maturato. E quindi è uno strumento diverso da quello relativo al fondo. Allora, c'è un altro caso ancora, che è quello di chi passa da una situazione di lavoro dipendente a quella di lavoro autonomo, perché anche in questo caso bisogna capire se gli strumenti previdenza complementare dialogano tra loro. Allora, se fino a ieri, presidente Tarelli, ho versato a Fonchim, che è il fondo pensione dei chimici, utilizzo sempre gli stessi perché sono i più grandi, i più famosi, ma da domani voglio fare la libera professione, apro una partita IVA e quindi vado da Manzato, da un'associata ANIA, e chiedo invece la sottoscrizione e l'apertura di una forma di previdenza individuale, un piano individuale di previdenza, un PIP. In questo caso la trasferibilità lo stesso è possibile? Ma in questo caso la trasferibilità di massima è possibile lo stesso, perché se il posto di lavoro precedente è chiuso definitivamente e quindi si apre una nuova realtà. D'altra parte i fondi pensione aperti sono tra quelli previsti dalla pensione integrativa, quindi sono proprio aperti a tutti, addirittura casalinghe o studenti, oltre che professionisti. Quindi c'è una gamma molto ampia in questo senso, perciò credo che il problema non sia regolamentare, sia un problema soprattutto di scelta e di scelte personali. Infatti, chi sentiamo adesso? Ah, Adriano da Roma. Adesso qua speriamo di non andare in difficoltà con questo caso, di poter dare un indirizzo di massima al nostro ascoltatore, che ha un figlio che, io dico per fortuna sua, Adriano se ne va in Regno Unito, no? Lei però non è tanto contento che questo ragazzo voli via dal nido. Beh, contento per lui, ha studiato all'estero e comunque è bene che se ne stia, che lavori. Un cervello in fuga, insomma. Che cosa fa questo ragazzo, Adriano? È un consulente informatico. Ah, ottimo. Sì, lavora per un'azienda italiana in questo momento. Innanzitutto, buongiorno a tutti. lavora per un'azienda italiana e lascia l'attività, un contratto a tempo indeterminato, per iniziare il 1 settembre in Gran Bretagna con un'attività analoga in un'azienda inglese. Volevo sapere che cosa succede in questo caso. Lui ovviamente adesso aderisce al fondo Cometa e può trasferire all'estero la posizione o chiuderla o la lavorazione attiva. Allora, che cosa dove cominciamo? Manzato intanto. Dipende, deve fare delle scelte questo però, nuovo, diciamo, lavoratore. Che intanto se paga, sicuramente Cometa non se lo può portare nel Regno Unito, no? Perché non credo che la nuova azienda anglosassone possa garantirgli dei versamenti su un fondo italiano. Non c'è ancora una portabilità, ecco, trasportabile. Geografica non ce l'abbiamo. Detto questo, ammettendo che lui appunto interrompa i versamenti dalla vecchia azienda e adesso apra una posizione nuova in virtù del nuovo lavoro, quindi ammettendo che apra appunto una posizione presso una polizza assicurativa. Se questo giovane lavoratore comincerà a pagare le tasse in Inghilterra, per cui diventa, come dire, un contribuente inglese, in Inghilterra ci sono gli individual retirement account, ci sono i fondi pensione anche aziendali, per cui con ogni probabilità nell'azienda dove andrà a lavorare ce ne sono, e quindi seguirà le regole inglesi. Però la posizione vecchia, ci suggeriscono, può essere riscattata. Può essere in questo caso riscattata. Esatto, è una delle caratteristiche del riscatto, la perdita o la chiusura comunque definitiva del posto di lavoro. A quel punto il capitale che ho pensato rientra nelle disponibilità del singolo. Questo è come prima, insomma. E ognuno fa quello che ritiene più giusto con quei soldi. Non c'è un vincolo in quel caso. Peraltro, insomma, andando in Inghilterra, là c'è una consolidata tradizione anglosassone di previdenza integrativa privata, per cui chissà che, insomma, si trovi anche meglio. Molto buona, guardi. Vero? Oltretutto loro hanno già adottato quel sistema dell'iscrizione generalizzata, col lavoratore che entro un certo periodo di tempo poi stabilisce se rimanere o no e quindi viene informato. L'hanno fatto lì dove la previdenza è già molto più diffusa che da noi. probabilmente anche noi dovremmo cominciare a riflettere su queste cose in modo un po' più dinamico. Però Presidente, ci vorrebbe anche un interlocutore un po' fermo al Ministero del Welfare, no? Lei che dice? Ma guarda, meno, perché se qua continuano a cambiare. Io penso che il Ministero del Welfare sta facendo un grosso lavoro, anche perché si sta parlando di welfare allargato, e quindi forse poi avremo modo di fare qualche battuta. Facciamola cose... subito, cosa significa il welfare allargato? Ma significa entrare in una dimensione del welfare che sia onnicomprensivo fra previdenza e sanità integrativa. Significa rimodulare una parte importante della vita sociale del paese. Vede, nel passato, negli ultimi 20 anni, noi abbiamo pensato alla sostenibilità dell'economia, delle prestazioni, guardando esclusivamente alla pensione. In realtà la parte sanità non l'abbiamo lasciata un po' correre, e oggi c'è un grande longevità, problema. Diciamo longevità. C'è la crisi delle nascite, quindi c'è la minore contribuzione, e la longevità porta pure la non autosufficienza, porta un periodo di pagamento di pensioni più lungo di quello che c'era. Quindi si apre una dimensione che va regolamentata, perché altrimenti vengono fuori problemi insormontabili. Lo Stato non può tenere testa a quello che è l'aumento molto forte di risorse che occorre in questi casi. Il mercato è già pieno di operatori, sono oltre 500 gli operatori che agiscono, per esempio, nella sanità integrativa, dove però c'è un grande difetto di regole, di trasparenza, di verifica dei diritti degli iscritti. Molte volte ci sono anche, intendiamoci, società molto serie, anche d'ordine contrattuale. Qual è l'autorità competente al controllo, al monitoraggio dei fondi sanitari? Ma in generale il Ministero della Salute, con il quale siamo in contatto proprio per fare questo ragionamento, per costruire questa nuova dimensione, sia col lavoro che con la salute, i due ministri, stiamo ragionando in termini anche abbastanza solleciti, perché in questo governo, che ha grandi valori di riforme importanti da portare per dare una mano a far crescere il paese da questo punto di vista, questa riforma è una di quelle che si ritiene molto importante. A più presto, Presidente, una bella puntata sui fondi sanitari, perché ci sembra appunto un tema assolutamente di grande attualità. 800 24 00 24, speriamo che a nessuno venga in mente di fare un'altra autorità di controllo su questo, perché non ne sentiremo la mancanza. Magari prendetevela voi, Presidente, veda un po'. L'esperienza si prenda c'è. Un vicepresidente delegato a l'esperienza c'è. Sensibilità ha funzionato anche bene. Noi infatti vedremo lo stesso meccanismo mutatis mutandis proprio per la sanità. Massimo da Ferrara, buongiorno. Buongiorno, io stavo ascoltando la trasmissione, no? E sentivo un po' dei toni un po' così ottimistici riguardo ai fondi pensione. Io non la penso a questa maniera. Guardi Massimo, allora il tema è che io tutte le volte che faccio la trasmissione su questo argomento mi arrivano delle accuse, fai lo sponsor dei fondi pensione. Io vorrei solamente sensibilizzare su questo tema. Poi è chiaro che non c'è la soluzione per tutti, che qualcuno di voi ha avuto una disavventura, che non è soddisfatto, Massimo, però il tema è che quantomeno teniamo le antenne ben puntate sull'argomento, non facciamo che ci passi sotto gamba, perché poi tutto lì. Poi ci dica come è finita la sua situazione, com'è andata, che a me non è una cosa. Assolutamente con lei, anzi apprezzo il fatto che vengano, come dire, si parli di queste cose. Cioè io l'unica mia perplessità è questa, cioè io aderisco dal 98 a un fondo pensione, Cometa appunto, cioè, e non mi sembra che sia la soluzione della pensione che non avremo. Mi sembra che c'è, io verso, alla fine avrò, quando andrò in pensione a 66 anni, 200 euro di pensione, non so. Questa non mi sembra che sia la soluzione. Ma so al mese che va ad integrare l'assegno pubblico, Massimo? Cioè non è che lei avrà una... Che sarà la metà del mio stipendio, più o meno, da quello che si sente dire, quindi non so se allora arriverò a prendere 1000 euro al mese, non so come camperò con 1000 euro al mese. Ecco, questo è un po' il quesito, cioè... Allora, no Massimo, lo so, purtroppo lì non è che avviene in un fondo pensione una moltiplicazione dei pani e dei pesci, sulla base di quanto lei sta versando attualmente, e poi verrà tutto capitalizzato. Ma Roberto Manzato, vogliamo un po' spiegare i meccanismi anche di conversione dal montante poi alla rendita mensile, che di fatto è questo. Ma per dare una stima ovviamente molto, se vogliamo, rozza e con numeri stramedi, per cui insomma prendetela per quello che è. Versando tot quanta avrò? Versando per 30 anni, che ne so, il 10% del mio stipendio, posso ragionevolmente aspettarmi di avere un'integrazione pari al 20-25% del mio stipendio medio che ho ricevuto durante la mia vita lavorativa. Questo cosa significa? Significa, per esempio, nel caso in cui faccio numeri tondi, giusto per capirci, che io guadagni 1000 euro al mese e metta via 100 euro al mese, quindi il 10%, mi posso aspettare che alla fine della mia carriera lavorativa, dopo 30-35 anni di contribuzione, di ricevere più o meno 200 euro al mese di integrazione. Che mi rendo conto, 200 euro non risolvono il tutto, però facendo riferimento 2400. A 1000 euro per esempio di pensione, 200 euro sono il 20% in più, che è esattamente come dire, quello che più o meno era l'obiettivo quando si è cominciato a parlare nella riforma Dini del 93 di previdenza integrativa. Si diceva, vabbè, noi diminuiremo per motivi di sostenibilità le pensioni pubbliche del 20-30% e dobbiamo trovare un pilastro privato perché d'ora in poi le pensioni si pagheranno sulla base di quello che avete versato, non sulla base dell'ultimo stipendio preso. Esatto, quindi per cui, l'obiettivo era proprio quello. Cioè, non abbiate l'idea di versamenti straordinari per rendite eccezionali, e stiamo parlando di cifre ragionevoli, appunto. Non è la Lotteria Italia, non so come dire, è un modo per integrare quel 20-30% di pensione che verrà ridotta a causa del fatto che viviamo tutti molto più a lungo, perché in sintesi la questione è questa. Allora, noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma abbiamo avuto più di 50 telefonate, per cui vi invito di nuovo a ricomporre questo duetto per argomentare bene con i nostri ascoltatori questo argomento, prendendo naturalmente le osservazioni positive ma soprattutto quelle negative. Grazie a Rino Tarelli. Grazie a voi. E Roberto Manzato, buona giornata. Grazie a tutti. Buona giornata, a presto. Cuore e denari.